senza perché, non riesce più a capire quello che ha dentro di sé e che cosa è meglio fare. Lei non sa cos'è quello che forse sa già, lei non sa cos'è che le dà la felicità. Ferma con tutto quanto intorno, sa che se si muove qualche cosa si spezzerà, e allora aspetta attenta che venga solo il giorno in cui tutte le cose il suo cuore spiegherà. Lei ha avuto tutto, non ha avuto niente, e non dà spazio ai consigli della gente, perché quello che ha perso non lo ritroverà, le parole buone che la gente le dirà. Adesso ha una figlia da accudire e vuole pensare solamente al suo avvenire, ma ora c'è qualcosa che ancora lei non sa, che come poter dare alla bimba il suo papà.